Italia in controluce. È il 22 di novembre, eccoci una nuova puntata di Italia in controluce, come sempre in studio Daniele Biacchesi per la redazione di Radio 24. Oggi la puntata l'abbiamo chiamata come un vecchio film di Carlo Lizzani sui banditi a Milano, Milano calibro 9. Milano, una donna di 30 anni che viene trovata in casa di un uomo da poco arrestato per rapina. È morta, incaprezzata, con la testa in una busta di plastica. Poco prima, sempre a Milano, un assicuratore di 69 anni viene ucciso in strada con un colpo alla testa. Nelle stesse ore, poco più a ovest, un pregiudicato viene freddato in strada a Torino. Pensate ci sia un problema di sicurezza a Milano, vi sentite sicuri oppure insicuri? Poi tra poco sentiremo anche il questore di Milano, vi ricordo i messaggi al 349-238-6666, perché parliamo di città sicure o di insicure, perché pensiamo che le città in generale siano sempre insicure, questo nel discorso più generale, ma così come i piccoli paesi, si uccide in provincia, si uccide anche nei piccoli paesi, non soltanto nelle città. Ed è chiaro che poi quando avvengono due o tre omicidi in poche ore, diciamo il sospetto, oltre la tentazione da parte di qualcuno di cavalcare l'onda della sicurezza, cioè. Ma vediamo un po' con Valentina Forlanetto di ricostruire questo duplice omicidio che ci riporta alla Milano degli anni 50, quella che veniva raccontata da Scerbanenko ed è stata raccontata poi in giorni più vicini a noi da uno scrittore chiamato Piero Colaprico. Sì, ci riferiamo a due, come hai detto tu Daniele, a due omicidi avvenuti nelle ultime 24 ore in città. Uno ieri sera alle 19.30 via Mosè Bianchi, per chi non abita a Milano è una zona molto centrale, all'angolo con via Alberto Mario. Un unico colpo, sparato alla nuca, alle spalle con un revolver. Così è stato ucciso Diego Preda, un assicuratore che mercoledì, ieri quindi, avrebbe compiuto 69 anni e ieri invece è stato assassinato. L'uomo stava raggiungendo un garage dove, come ogni giorno, parcheggiava la sua auto per andare a lavorare in via Monterosa 21, dove aveva la sua agenzia assicurativa. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi né problemi finanziari né problemi familiari. Divergono le testimonianze raccolte sul luogo del delitto. Diversi testimoni rivelano di aver visto un uomo dileguarsi a piedi verso piazza Zavattari, ma c'è chi dice che indossasse un casco, mentre altri parlano di un passamontagna, altri ancora lo descrivono a volto scoperto. Nel punto dove è stato colpito Preda non ci sono telecamere. Chiaramente questo assassino ha fatto pensare a quello, vi ricorderete, due mesi fa di Massimiliano Spelta, l'uomo che è stato assassinato insieme alla compagna in via Muratori, sempre a Milano. Ieri è stata trovata anche una donna assassinata, è una donna di 44 anni, capoverdiana, è stata trovata dalla polizia legata e uccisa in un appartamento in piazzale Lagosta, le mani e i piedi legati, come dicevi aveva un sacchetto nella testa, una tecnica che ricorda certi rituali mafiosi. Gli agenti si erano recati in questa palazzina per eseguire una perquisizione seguita all'arresto di un rapinatore e hanno trovato questa donna. L'uomo, il rapinatore, è un tossicodipendente con dei precedenti. Abbiamo parlato con il questore Luigi Savina, il questore di Milano, e gli abbiamo chiesto appunto se questi due ultimi omicidi in qualche maniera sono correlati. Sentiamo cosa ci ha detto. No, assolutamente non c'è connessione. L'episodio di via Mosè Bianchi è un episodio su cui che stiamo accertando, perché si tratta di una persona incensurata, con una famiglia normale, moglie, un figlio, che aveva anche un professionista, un'agenzia assicurativa, infatti è stato ucciso mentre usciva dall'agenzia assicurativa. Si investiga a 360 gradi sulla vittima. Diverso il caso di via Lagosta, è un omicidio collegato certamente all'autore della rapina. Che tra l'altro è stato interrogato, se non sbaglio. Non ancora è stato interrogato, è in stato di arresto, chiaramente aveva le chiavi del posto dell'omicidio, la donna in una qualche maniera non dovrebbe essere un'italiana in corso di identificazione, dovrebbe essere una donna extracomunitaria collegata comunque all'uomo, quindi diciamo un omicidio chiaro che ha una natura come dire, quasi privatistica di rapporto fra due persone di sesso opposto. Una morte terribile, tra l'altro aveva il volto coperto da un sacchetto, era stata legata a mani e piedi. Si è parlato anche di una tecnica dell'incaprettamento mafioso, invece pare che non c'entri questa pista. No, assolutamente questa pista non c'entro, però le confermo che poverina ha avuto aspetti anche di sofferenza per questa donna, oltre insomma quelli immaginabili per una persona che decede. Invece Diego Preda, l'uomo di 69 anni ucciso ieri sera, è stato proprio freddato in strada. In che ambito colloca questo omicidio? Si parla spesso dell'andrangheta, della presenza dell'andrangheta in Lombardia ultimamente. Potevano esserci situazioni di questo tipo, debiti, su cosa state lavorando? Guardi, allo Stato le faccio una differenza con un duplice omicidio che c'è stato a Milano qualche mese fa in via Muratori, si ricorderà di un uomo italiano, milanese e della moglie che è in braccio alla bambina pur uccisa, che era della sudamericana. Bene, in quel caso l'individuazione durante la perquisizione a casa della vittima di droga ha collegato in un scenario malavitoso l'omicidio. Nel caso di ieri sera dell'assicuratore, l'assenza di pregiudizi penali, una vita assolutamente normale, cioè la moglie e un figlio, un'attività lavorativa, non fa intravedere allo Stato ipotesi di collegamento con criminalità organizzata, né che l'omicidio possa essere maturato in tale ambito. Quindi stiamo lavorando sul comprendere se ci possa essere stato un qualche screzio, una qualche parte, un qualche problema nella vita professionale o privata di questo soggetto, da scaturire magari una mente esagitato, ecco, che non si sia determinato a commettere questo omicidio. Non siamo precipitati in un clima di violenza. Nella Milano violenta degli anni 70, no? No, assolutamente no. Enzo è un tassista, credo, di Milano. Milano è una città sicura quanto lo può essere una città di dimensioni importanti. Dice Liliana da Milano: credo si tratti di omicidi mirati, possono venire dovunque, il sindaco non può mettere la polizia ad ogni angolo. Corrado da Como crede invece sia una guerra tra i clan della cocaina che ha invaso ogni settore dell'economia della malavita, professionisti e delinquenti per la polverina sono ormai simili. La crisi sta cambiando anche gli equilibri della distribuzione di stupefacenti e questa mattanza sembra la logica conseguenza, scrive Corrado da Como. A Verona e provincia bande di ladri dell'est Europa stanno facendo razzia in aziende e case, non ci sentiamo sicuri, la legge non ci tutela, scrive Marco. A Milano siamo attraversati dai vigili, multe su multe, che facciano più controlli sul territorio alla ricerca di criminali. Se per Marco la delinquenza c'è sempre stata, il problema vero restano i tagli alle forze dell'ordine. Allora la nostra Valentina Fulanetto, ha sentito poco fa l'assessore alla sicurezza del comune di Milano Granelli. Noi stiamo facendo da due mesi interventi mirati nei quartieri, interventi interforze che coinvolgono carabinieri, polizia di Stato e polizia locale, vigili, per fare interventi serali nei quartieri, ruotando, appunto scegliendo due alla settimana e ruotando proprio per intercettare le situazioni più complesse e la criminalità organizzata, oltre che l'attività ordinaria. Noi proprio adesso eravamo in una riunione con una zona, stiamo facendo incontri zona per zona con i consigli di zona proprio per mettere a fuoco le situazioni più critiche e anche qui affrontarle insieme, cioè il Comune di Milano con la polizia locale e con gli interventi dell'amministrazione comunale, la polizia di Stato e i carabinieri dove serve la Guardia di Finanza. Questo vuol dire. L'assessore della sicurezza Granelli, le città sono italiane, sono peggio di quelle sudamericane, dice Gregorio da Catanzaro. Grazie a tutti, grazie naturalmente a Valentina Follanetto per questo racconto di oggi. Vi ricordo che Italia Contro Luce tutti i giorni alle 13.30, ci trovate su Facebook, la pagina del gruppo, su Twitter, la mail contro luce @radio24.it.